Sempre Luigi Ferrarella e Giuseppe Guastella raccontano questa vicenda incredibile che già destò molto scalpore a pagina 29 del Corriere della Sera. Siede in Parlamento un deputato che per sottrarre al procedimento penale materiale probatorio di rilievo sulla concessionaria Atlantis di Francesco Corallo, prima ha falsamente dichiarato di essere il proprietario di un computer che la Guardia di Finanza stava sequestrando. E poi, molto tempo dopo, ha spontaneamente consegnato alla Guardia di Finanza il computer non prima di averne cancellato la memoria e tentato di camuffarne la reale titolarità. È la vicenda di Amedeo La Boccetta, documentata da un capitolo dell'ordinanza d'arresto emessa ieri per Corallo. I risultati della consulenza informatica sono sorprendenti. Il computer risulta manipolato, con cancellazione di dati pregressi. Inoltre era intestato a PC Francesco, cioè Francesco Corallo. C'era una cartella utente denominata Francesco. Insomma, era di Corallo e non di La Boccetta, invece è stato cancellato, in sostanza il computer è stato manipolato e rinominato al fine di occultare l'effettiva proprietà del PM in capo a Francesco Corallo. Questa è l'accusa, che coinvolge anche un deputato italiano, ma ci sono tante intercettazioni, si tirano in ballo, il giornale tira in ballo anche Fini, ripropone la foto di quando Fini fu ritratto insieme a questo Francesco Corallo in una visita alle Antille. E insomma, questa vicenda ne regalerà delle belle nei prossimi giorni. 24 mattino. Eccoci qua, ben ritrovati da Alessandro Milan, sono le 8 e 21 minuti, allora noi oggi parleremo, come detto prima, avremo ospite uno degli imputati che sono stati assolti nella vicenda di Rignano Flaminio. Prima però vogliamo andare ancora dalla nostra inviata Raffaella Calandra sui luoghi colpiti dall'Emilia, dal terremoto. Raffaella, eccoci qua con noi, buongiorno. Ciao per un aggiornamento. Buongiorno. Allora, intanto come si è risvegliata questa mattina, come sono risvegliate le popolazioni colpite con paesi, soprattutto Cavezzo, che è stato davvero ferito nel suo cuore? Si sono svegliati, o meglio, hanno visto spuntare di nuovo il sole con tanta paura, perché è stata una notte, devo dire, veramente senza riposo e senza tregua, come abbiamo già detto, perché si sono contate 41 scosse e anche se di leggera entità, hanno però sicuramente rinnovato ogni volta lo spavento nelle popolazioni, soprattutto sfollate, come quelle di Cavezzo, che abbiamo incontrato ieri per tutta la giornata, che hanno in gran parte passato la notte nei campi e nelle tende allestite appunto alla periferia del paese, per cui c'è tanta paura e la sensazione di un'emergenza che è ancora tutt'altro che finita. Sì, tra l'altro i giornali sono pieni di polemiche, purtroppo c'è anche da rendere conto di questo, del fatto che molte persone hanno perso la vita sotto i capannoni mentre erano al lavoro, sia operai ma anche un imprenditore, anche un ingegnere che era lì per controllare proprio la staticità dell'edificio stesso. Ecco, di questo se ne parla lì oppure, come dire, ci si occupa soprattutto della tragedia appena accaduta e delle prime necessità da affrontare? No, assolutamente questo è un tema molto forte, perché chiaramente innanzitutto si stanno ancora cercando un disperso, il recupero degli altri due operai morti a Medolla, e perché ancora una volta, come una settimana fa, le vittime si sono contate proprio appunto sotto questi capannoni, anche recenti come quello dell'Emotronic di Medolla, che sono crollati. Quindi ecco, se da una parte appunto c'è chiaramente ancora tutta l'emergenza a cui far fronte, però le discussioni e le riflessioni su questi capannoni che sono crollati sono ben presenti a tutti. Ancora una volta appunto ci si chiede perché questi capannoni non abbiano tenuto, e chiaramente questa è forse una delle cose più forti che si percepiscono arrivando qui nella zona della cratere, perché si vedono una dietro l'altra questi capannoni che sono ridotti proprio a cumuli di macerie e i tetti che si sono accartocciati su se stessi, come appunto quelli delle fabbriche dove ci sono gli operai che sono morti a San Felice, a Medolla e al mobilificio di Cavezzo. Per cui perché ecco questi capannoni sono venuti giù così facilmente adesso come una settimana fa? Tutte domande a cui le inchieste che sono state aperte, sì, anche per questo sisma, cercheranno di dare risposte, ma chiaramente ci saranno gli indagati, ci saranno i tempi e le procedure, diciamo, che conosciamo della giustizia, ma in questo momento, in queste zone, c'è ancora troppo forte la ferita e la paura, appunto, di queste scosse, per poter adesso andare a riflettere sulle inchieste. Un altro dei temi dei quali vorrei capire da te se si parla è la questione di come affrontare dal punto di vista economico la ricostruzione, nel senso che aleggia questa ipotesi, oggi il governo ci dirà qualcosa ovviamente, dell'aumento dell'accisa della benzina a livello nazionale, poi ci potrebbe essere anche l'aumento dell'accisa della benzina a livello regionale. Ecco, è chiaro, vuol dire beffa tra le beffe in questa tragedia. C'è un'idea di quello che le popolazioni locali chiedono al governo centrale? Chiedono sicuramente soccorsi, perché ci sono persone che hanno perso la casa, hanno perso il posto di lavoro, ci sono molte persone che ci hanno detto che stavano pensando di lasciare questa zona per ritornare, casomai, alcuni che erano originari del sud Italia. Ecco, è una terra che in questo momento è completamente distrutta, perché quando in qualche modo cominciava a ipotizzare un percorso di ricostruzione e di ripresa dopo il terremoto di una settimana fa, che anche allora, ricordiamolo, ha pesantemente colpito proprio il tessuto industriale di questa terra, la bassa tra Modena e Ferrara, questo nuovo terremoto ancora più pesante è andato a incidere ancora di più nella produzione, appunto, quindi nella vita economica. Quindi si chiede vicinanza, si chiede un soccorso molto concreto, perché la paura è quella di una lunga ripresa, che soprattutto in qualche modo faccia fatica a riportare una vita economica in queste zone. Io intanto, Raffaella, ti ringrazio. Grazie a Raffaella Calandro, ovviamente ci terrai aggiornati da Radio 24 nel corso della giornata di quelli che saranno gli sviluppi, la nostra inviata ovviamente nelle zone colpite dal terremoto. Noi, come detto, parleremo di una vicenda che ha segnato gli ultimi anni, una vicenda giudiziaria che si è conclusa almeno per quel che riguarda il primo grado, e vedremo se ci sarà l'appello da parte della procura di Tivoli, e che ha segnato anche l'opinione pubblica. Ricordate Rignano Flaminio, il luogo dove sei persone, tre maestre, due bidelle, un autore televisivo, marito di una delle maestre, sono stati accusati per 6 anni, sono stati processati per l'accusa più infame, quella di pedofilia, di essere orchi, di avere abusato di 21 bambini. Dopo 6 anni, dopo che l'opinione pubblica si è spaccata, si è divisa, sono stati scritti libri, sono state criticate da una parte le indagini, da un'altra parte i genitori invece dei bambini continuano a sostenere che sia stata fatta ingiustizia nei loro confronti, dopo tutto questo, dopo 6 anni di indagini, il processo di primo grado, queste persone sono state assolte perché il fatto non sussiste. Sono state assolte con tra le urla di rabbia dei genitori e nei confronti dei giudici, scene anche sicuramente di isteria collettiva, e però queste persone assolte dovranno convivere ovviamente per tutta la vita con questo marchio per 6 anni di essere state additate appunto come dei pedofili. Con noi tra poco parlerà Gianfranco Scancarello, uno degli imputati assolti, l'unico uomo di questo processo che è stato assolto dopo 6 anni, ci racconterà cosa ne pensa di questa inchiesta, cosa ne pensa della vita che è stata, di questi 6 anni e della vita che sarà. 800 24 00 24, la vicenda di Rignano Flaminio tra poco con noi. 24 mattino. Eccoci qua, allora, 8 e 34 minuti. Per diversi anni, per 6 anni, la vicenda di Rignano Flaminio, lo ricordate, ha diviso l'opinione pubblica. 6 persone sono state accusate del delitto più orribile, quello di pedofilia, di abusi su bambini, su 21 bambini. Dopo 6 anni di un'inchiesta zoppicante, c'è stato il processo di primo grado, queste persone sono state tutte assolte perché il fatto non sussiste. Però le polemiche continuano alla lettura della sentenza. I genitori dei bambini che si sono scagliati insultando i giudici, ci sono state scene ovviamente di isteria. Comprensibilmente questa vicenda ovviamente è una vicenda che ha coinvolto anche le emozioni di tutte le persone coinvolte. Oggi è con noi, lo ringrazio, uno degli imputati che è stato assolto, Gianfranco Scancarello, un autore televisivo, è stato imputato per 6 anni e lo saluto. Buongiorno Scancarello. Buongiorno a lei, dottor Mina. Allora, sono passati 6 anni e intanto la prima domanda che viene da fare è ovviamente come si sente, cioè se questa sentenza di assoluzione può in qualche modo ripianare tutto quello che c'è stato. Ripianare è un termine che io credo che non vada preso neanche in considerazione, mi permetta, nel senso che la vita ti mette di fronte a orribili scenari esistenziali che non si possono ripianare. Questa accusa, come l'ha definita giustamente lei, la più infamante di tutte, il marchio di infamia più assoluto, una volta che ti è stato messo addosso, io credo che non te lo toglierà nessuno. Certamente questo tipo di esperienze rafforzano e forse ci chiamano anche a delle responsabilità in relazione a questa logica assurda che si chiama falso abuso e che oramai è diventata un'epidemia in Italia, una vera e propria caccia alle streghe per la quale degli innocenti tuttora sono in carcere. Io poi alla fine sono un uomo perfino fortunato nella tragedia che ci ha investiti perché in qualche modo ho avuto il clangore della comunicazione. Ci sono tutta una serie di altre vicende, le assicuro, aberranti come questa, di cui nessuno parla e di cui nessuno sa niente se non in qualche trafiletto di giornale locale. Senta, e questo secondo me è molto grave. Tre maestre, di cui una sua moglie, una bidella, lei appunto accusati per 6 anni di questo, poi assolti. Ora ci saranno le motivazioni della sentenza. Lei come si spiega il fatto che i genitori dei bambini, dei 21 bambini, alla lettura della sentenza, e ancora oggi sentono che sia stata fatta ingiustizia ai loro danni e dicono i nostri bambini sono stati così abusati 2 volte? Guardi, io credo che ci sia un fenomeno, come l'ho definito giustamente lei, di isteria collettiva. Si tratta di una convinzione, è una sorta di teorema che è stato effettuato scambiando dei segnali di normale manifestazione della propria individualità sessuale trasformati in una preoccupante manifestazione di abuso subito dai propri figli, dalla propria figlia parlerei in questo caso per quello che concerne questa prima madre che ha voluto leggere in questa maniera errata un po' le cose. Dopodiché tutta una serie di, mi permetta di dirlo, di tristi personaggi sono saliti a bordo di questa vicenda e hanno favorito la diffusione, una sorta di contagio dichiarativo in base al quale in qualche modo è cresciuta questa convinzione, si sono rafforzati nella convinzione l'uno con l'altro. In più i media, questo io lo devo dire, così come ho detto che in qualche modo i media peraltro ci stanno rendendo giustizia anche in questo momento, anziché chiudere con una sentenza appunto quel famoso trafiletto di cui parlavamo prima, e i media con i loro salotti televisivi molto spesso fanno posare le terga sulle poltroncine a altrettanti tristi personaggi i quali manifestano dei convincimenti che sono privi di qualsiasi riscontro. E questo a casa mia, ma credo anche a casa sua e a casa di molti radioascoltatori di Radio 24, si chiama caccia alle streghe, perché nel momento in cui, come ha scritto la Cassazione nel 2007, a seguito del ricorso del PM per la nostra uscita dalla carcerazione,

La verità è questa, che io adesso esco da casa, vado dai carabinieri e dico che il dottor Milan mi ha detto mia figlia, l'ha insidiata. Lei da quel momento in poi è un pedofilo in Italia e non mi può controdenunciare, sa perché? Perché io ho fatto una denuncia di relato, cioè ho detto che mia figlia mi ha detto, mica l'ho denunciata come pedofilo. Quindi lei ha paura che questo marchio non le verrà mai tolto. Io ieri, guardi, su Twitter ho mandato questo tweet provocatorio a dire quante persone, mi scusi la durezza, quante persone affiderebbero i propri figli alle persone che sono state assolte perché il fatto non sussiste dalla procura di Tivoli. E, sa che molti hanno detto no, perché comunque rimane questo dubbio, rimane la calunnia come vento che viaggia e che è inarrestabile. Lei ha paura di questo? Io, guardi, io oramai non ho più paura di nulla, dopo che da innocente insieme ad altre 4 o 5 persone, anzi per l'esattezza sono stato per 17 giorni in galera, dopo che uno non può certo mettere in conto nella propria esistenza un'accusa di pedofilia, dopo che è un padre di famiglia di 4 figli, anche nonno peraltro, io non ho paura di nulla, certo. Questi è comprensibile quello che gli hanno scritto su Twitter, tant'è vero che la mia consorte ha rinunciato 4 anni fa, subito dopo il caso, rimanere nella scuola, perché noi siamo andati via da Rignano a seguito di una serie di minacce di morte, e ha rinunciato ad andare a scuola, perché quale scuola può, quale genitore può sentirsi tranquillo di affidare a una maestra con questo marchio di infamia i propri figli, anche se questa maestra è la madre di 4 figli, sì. è una persona che a 50 anni con 4 figli ha deciso di laurearsi in scienza dell'educazione e 2 anni dopo l'hanno accusata di pedofilia, cioè qui il vero problema è che c'è una violenza dell'istituzione nei confronti dei servitori dello Stato che è gravissima. Io non le voglio citare le parole che definirei da irresponsabili, oltre che disonorevoli per chi le ha pronunciate, del ministro della pubblica istruzione di allora, il quale, avendo giurato sulla Costituzione che prevede la presunzione di innocenza, emise un verdetto ai giornali di condanna, di chiedendo scusa ai genitori e parlando di mele marce che sarebbero state estirpate dalla scuola. Chi era il ministro Colmi? Il ministro Fioroni. Allora, stiamo parlando con Gianfranco Scancarello, è uno degli imputati assolti perché il fatto non sussiste nella vicenda degli orrori, o a questo punto presunti orrori, falsi orrori, di Rignano Flaminio, assolto insieme alla moglie. Tra l'altro proprio nella vostra casa si sarebbe identificata una delle 30 case, perché lei deve sapere che il mandato di carcerazione c'era scritto che questi atti sarebbero stati effettuati o a scuola o nelle case o nei magazzini o e poi tutti questi io non si è dato una risposta. Senta, lei è stato 17 giorni in galera come gli altri imputati, che vuol dire entrare in galera e stare in galera con un'accusa di questo genere? Significa che carcere tu sei giustamente considerato il peggio del peggio, soprattutto quando alle 20:30 di un 24 aprile ci sono dei pseudo giornalisti che dichiarano bellamente delle opinioni di questo tipo. Adesso gli orchi stanno in galera, i bambini possono stare tranquilli. Le lascio immaginare la reazione che ci fu fra i carcerati di Re Bibbia al mio indirizzo. Ecco, queste sono le immagini che uno non dimenticherà. Il marchio di infamia, vede che c'è, è qualche cosa che continua ancora oggi. Ci sono programmi televisivi in questi giorni che stanno continuando a buttare fango, nonostante una sentenza abbia detto alle famiglie, ai legali, alle parti civili e niente, dicono che, come dire, sono dalla parte dei bambini, ai bambini bisogna credere, i bambini, certo bisogna credere sicuramente, ma i bambini sono la voce dell'innocenza, i bambini non hanno, come dire, l'attendibilità che può avere un adulto. Mi faccio sentire Maria Grazia da Roma, ci ha chiamato l'800 24 0024. Maria Grazia, buongiorno. Buongiorno. Dica. Guardi, io lavoro in una scuola di Roma da tantissimi anni, in tutta la mia carriera sono ormai quasi 40 anni e per la mia esperienza posso dire, perlomeno per quello che io ho potuto vedere all'interno delle scuole romane, quello che è stato detto, cioè che i bambini venivano presi anche da varie classi, portati fuori, portati in queste case degli orrori e poi ricondotti a scuola affinché continuassero la giornata e poi fossero presi dai genitori, io ritengo che sia una cosa assolutamente impossibile, almeno che non ci fosse una totale complicità rispetto a questo, certo, dal preside, dal dirigente scolastico fino all'ultimo bidello, passando per tutti i maestri. Cioè dice dovevano sapere tutti, altrimenti non era possibile. Guardi, le garantisco, non si può prendere un bambino in una classe che non è la mia, perché la maestra doveva allontanarsi o con suoi bambini o con bambini presi in altre classi. Allora se io entro in una classe di una scuola media o di una scuola superiore, questa è la mia esperienza, e dico a una collega posso prendere Francesco e Maria, e lei mi dice sì, ma che ci deve, dove è chiaro, ci vuole autorizzazione, eccetera. No, la ringrazio Maria Grazia. Tra l'altro io vorrei ricordare, Scancarello, anche la vicenda del, lo ricordiamo, forse è stato dimenticato, il benzinaio cingalese che è Lonve Ramuni de Silva di Rignano, che ebbe la sfortunata idea di fare un, sapete quando si va a fare benzina, no? E dietro c'è il bambino, come succede a me e ai miei due figli, il benzinaio cosa fa? Fa sempre batte le dita sul vetro, ha fatto una linguaccia per far ridere questa bambina, in quel clima di evidentemente psicosi collettiva è stato tirato dentro ed è stato anche in carcere 15 giorni, poi con tante scuse credo lui non è mai neanche entrato nel processo. Non è entrato, no. Assolutamente. Però che cosa deve dare l'insegnamento questo, secondo lei, Scancarello? Perché la procura di Tivoli adesso vorrà vedere la sentenza e dire magari faremo ricorso in appello, voi vi aspettate che questa vicenda almeno giudiziariamente sia conclusa oppure no? Ma io credo che dopo la bellezza di un tribunale del riesame, una Cassazione, processo di primo grado, abbiano detto per tre volte guardate che qui non ci sono, non c'è reato, perché questo il fatto non sussiste, io credo che anche la procura di Tivoli che come dire, ha voluto tenacemente inseguire questa sua, non ipotesi, questa sua teoria che è molto diverso, cercando poi di dimostrare l'indimostrabile, credo che, come dire, in maniera sana mi auguro che vadano, ricorrano al buon senso, non serve una cultura giuridica. E l'altra cosa che devo dire è che questo caso Rignano è un po' il caso più eclatante come quello dell'asilo McMartin negli Stati Uniti. Poi questi episodi si sono, l'epidemia è venuta in Europa a seguito di, non le sto a dire chi, psicologi, teorizzatori dell'abuso, eccetera, eccetera, sono arrivati in Inghilterra, in Francia, eccetera, e poi sono arrivati in Italia. In tutti questi paesi che le ho citato sono nate delle legislazioni a garanzia, perché altrimenti la differenza fra processo alle streghe e giudizio comunque sia che abbia, sia fondato dal punto di vista del rispetto del cittadino, comunque deve avere una legislazione. Io credo che occorra ricorrere realmente a una legislazione, non come dice qualcuno rappresentante delle parti civili, legalizziamo la pedofilia, perché dire anche perché una battuta di questo genere è di una gravità abnorme. Senta, me lo dica in conclusione in un flash che devo chiudere, e lei ha già detto non ho paura di nulla dopo quello che è successo a me e a mia moglie, 17 giorni in galera, ma quando esce di casa sente gli occhi addosso o ha timore, ha paura di guardare negli occhi le persone per sentirsi giudicato? Guardi, senso c'è nel nostro paese, mi auguro che ci sia il buon senso delle istituzioni, perché la gente come dire, deve, è costretta a mettere l'identikit proposto dai media, dai giudici, addosso a delle persone. Se queste persone, se i due identikit fra persona e personaggio non corrispondono, non ci sono sguardi offensivi, ci sono, io ho trovato l'altra faccia della medaglia di questa assurda vicenda, è stata la comprensione, la compartecipazione, la solidarietà e la presenza di tantissime persone. Io la devo ringraziare e mi devo fermare, Gianfranco Scancarello, che è stato assolto da questa vicenda di Rignano Flaminio, e ci troviamo domani mattina alle 7:20.